Senta, però le voglio chiedere, secondo lei è credibile questa cosa delle minacce, eccetera? Sì, perché è stata data la scorta. Non ci credo minimamente. Cioè, lei non ci crede? No, assolutamente. Cioè, non lei credo pensa minimamente che... a questa cosa. Lei pensa che dare la scorta a Calearo sia stato sbagliato? Credo che sia stato sbagliato. Credo che sia... Ma sulla base di cosa? Mi scusi, Serra, sulla base di cosa lo dice? Perché dovrebbe essere stato minacciato? Perché dovrebbe essere stato ma minacciato? La scorta la decidono le autorità, dunque ci sarà... Assolutamente sì, ma lei è sicuro che gli è stata data la scorta? Eh sì, come no, l'ha detto lui, non ci sono smentite, eccetera. Bene, per me è stato un errore, è stato un errore. Poi sarà... No, certo, vabbè, perché... conoscere fino in fondo i fatti. Certo, la ringrazio, devo... C'è il giornale radio, grazie. 800 24 00 24, ci sentiamo dopo.